bruma romantica, quando l'ultimo sole si spegne nel cielo di fuoco, a poco le piazze suonano del concerto celeste che fanno vicine e lontane 100 campane. Roma romantica, com'è bello tornare per via di Porta Latina, uno con una, e sul Gianicolo ritrovare nell'aria piovosa di quel fontanone la nostra storia d'amor, uno straniero innamorato, una straniera col naso all'insù, pensano questo è un incanto, restano in quell'incanto. Coppie che guardano ponti facciate ed obelischi puntati nel blu, vanno tenendosi avvinte e baciandosi sempre di più. Roma romantica, nelle languide notti vegliate da pigri fanali sentimentali, le coppie cercano la piazzetta monastica dei cavalieri di Malta, che aspetta lassù, che aspetta lassù. Pensano questo è un incanto, restano in quell'incanto. Vanno tenendosi avvinte e baciandosi sempre di più. Roma romantica, nelle languide notti vegliate da pigri fanali sentimentali, le coppie cercano la piazzetta monastica dei cavalieri di Malta, che aspetta lassù, che aspetta lassù.